sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. Eccola qua la sigla che va dunque a presentare Disorder anche per oggi, 17 febbraio del 2020, Onderus 87.9, www.onderus.info per il nostro streaming. Spazio che andrà avanti da adesso sino alle 23 circa, 23.10, vedremo un po'. Si saluta dunque Maia dalla Sardegna, come Nicola Locci di Stigmate, anche lui da quelle parti, Cristiano Bocci in Toscana, Giovanni Lisi, Bari, bentornato a Marco qui a Roma, anche a Roma Daniele della Hellbones Records, etichetta molto interessante, Doriana Taranto. A Roma anche Paolo, anche lui. In Val d'Aosta, Jean-Claude Bertot. Da Udine Lupsi, Lucia Cagliazza, che salutiamo. Ricordo il radio abbonamento di 30 euro annuali. Stiamo cercando 1000 aderenti perché le spese della radio non possono essere coperte completamente dalle iniziative e dalla sottoscrizione, diciamo casuale tra virgolette, compresa quella di chi opera qui dentro. E dopo il buon esito dell'anno scorso ci riproviamo anche quest'anno, quindi c'è il banner specifico, ci si clicca sopra e si scopre, si sceglie quantomeno la modalità preferita. Fumo biondo, salutiamo anche lui, Storia Loggia. E infine Antonella qui a Roma, Ernesto anche lui, Ernesto e Giuliana qui a Roma. Allora, comincio questa trasmissione con un doveroso omaggio a un artista recentemente scomparso, sto parlando proprio di qualche giorno fa, augurandomi che questo omaggio sia gradito quantomeno alla maggior parte di quelli che già stanno connessi o all'ascolto attraverso una radio. È morto Franco Del Prete, che fu il batterista di Napoli Centrale, che fu una realtà molto, molto importante degli anni 70, almeno cominciò negli anni 70, insieme a Jem Senese. Anni molto importanti in quel periodo per il jazz rock, c'erano appunto loro, il Perigeo, per certi aspetti anche gli Area. E quindi mi sono sentito, tra virgolette, in dovere, già che ero un amante di quei suoni allora, che rappresentavano la mia adolescenza, di omaggiare appunto questo batterista e anche paroliere in ambito di musica leggera, ma io me lo ricordo soprattutto come batterista per l'appunto con Napoli Centrale, con i quali suonò in diversi epoche, in diverse epoche. Allora, ci ascoltiamo la celeberrima campagna di Napoli Centrale. Dunque, questo doveroso omaggio a Napoli Centrale, un vecchio gruppo del 1975, era questo l'esordio dunque per Napoli Centrale, che portava il loro stesso nome, e questo era il brano, diciamo, più famoso dell'epoca, si chiamava Campagna, ma tutto l'album era costellato di questo splendido jazz rock, con testi che evocavano lo sfruttamento delle campagne, la fuga delle campagne, la realtà della fabbrica. La voce era quella di James Senese, tuttora in attività con gli stessi Napoli Centrale, e la batteria, appunto, e parte dei testi erano, se non tutti, erano quelli di Franco Del Prete. I più attenti poi avranno notato che proprio nel prologo, diciamo, di Campagna c'era anche la presentazione del gruppo come un vero e proprio concerto jam session, e allora c'era, appunto, come si è detto, James Senese, Franco Del Prete, Mark Harris e Anthony Walmsley. Credo che Mark Harris suonava inizialmente con il rovescio della medaglia, che era una realtà progressive, mentre Anthony Walmsley bazzicò anche gli Osanna. Bene, dunque, veniamo alla Disorder, diciamo, alla quale siamo un po' tutti abituati. Vediamo un concerto che si terrà venerdì prossimo qui a Roma, venerdì 21, e il luogo è il The Frag, un posto anche eticamente giusto, se vogliamo, e suoneranno i Trees, un progetto proprio napoletano, guarda un po'. una Napoli un po' diversa, la Napoli più dark wave, legata anche allo shoegaze e alla psichedelia, per esempio di scuola Breathless. Le abbiamo cominciato a conoscere lo scorso lunedì, avendo qui sotto mano l'ultimo lavoro Epilogue, uscito proprio nel 2019. Questa sera altre due tracce per questo gruppo, ossia Shut Not Your Door e Silent Calling. Thank you. Estratti, ancora due estratti da questo epilogue, ultimo lavoro per i Napolitani Trees, ed è bello questo accoppiamento, giuro casualissimo, tra il ricordo tributato a Napoli Centrale, per ricordare Franco Del Prete, e questi Trees, due aspetti completamente diversi di Napoli, ma che testimoniano come negli anni la città sia rimasta assolutamente creativa. Trees, dunque, quattro lavori al loro attivo, ricordo ancora una volta Antonio Minucci ai sintetizzatori, Davide Fusco alla batteria, Francesco Candia alle chitarre, al basso Nino Candia e Paolo Daddio, voce e liriche. Hanno inciso in passato per l'Energia, l'Arc Records e qui in questa occasione per la VIP Cioio Sound Factory. Interessante anche la parte vocale in questo disco, ricorda molto Michael Stipe dei REM, ma in generale c'è un rapporto abbastanza stretto con la tradizione anche shoegaze e della psichedelia che va a incontrare l'oscurità che fece per esempio i Breathless, un esempio calzante e ottimo negli anni 80. Salutiamo anche la Black Cat che andrà a organizzare questo live molto interessante venerdì prossimo, come già detto, al The Frag a Monte Sacro, vicino alla palestra di Valerio Verbano, che peraltro, come molti sapranno, ricorre anche l'anniversario della morte il giorno successivo, proprio il 22 febbraio. Salutiamo George Self Pylon, lo ascolteremo più avanti attraverso la sua musica. E noi andiamo avanti. Ce ne andiamo in Emilia Romagna, lo facciamo con gli Ataraxia, gruppo assai caro al sottoscritto, ma anche a Radio Onda Rossa, che organizzò una data 3 anni fa a Forte Prenestino insieme a Giardino Violetto. E quindi personalmente mi piace tirare fuori anche le vecchie cose di Ataraxia, qui siamo proprio quasi agli esordi, e questo è Nosce Te Ipsum. Anche questa sera ce lo ascoltiamo ovviamente con due episodi diversi, Light Title Track e Zwei Stimmenstaung, tedesco quasi perfetto, le due tracce che ho scelto dunque per Ataraxia.